vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 19.26. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. A memoria d'uomo non si ricorda un'annata così scarsa di funghi. Non ci sono neppure quelli velenosi. Abbiamo interpellato il dottor Claudio Angelini, micologo di Chiarafama, che non ha risposte scientifiche da dare e imputa al vento costante degli ultimi mesi parte della causa della situazione. A seguire la rubrica del biologico a cura di Cristina Micheloni con gli ultimi dati della situazione italiana. Il Friuli Venezia Giulia un po' arranca e dell'Organic World Congress con le novità in campo internazionale. Riprende la rubrica dell'università per indagare i rapporti tra l'Ateneo e la vita nei campi. Ospite d'eccezione il magnifico rettore Roberto Pinton. Per la rubrica del vino Roberto Zironi ci parla della pigiatura e delle vinificazioni in rosso e in bianco. Sara Bosco poi ci spiega invece come proteggere in orto le colture dalle alte temperature e come correttamente irrigarle. Nello spazio della gastronomia con Roberto Zottara avremo la vera storia del dado da brodo con una ricetta tipica friulana basata sul prezzemolo. In conclusione, mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano. Gli affezionati ascoltatori di Vita nei Campi ricorderanno le lezioni che il dottor Claudio Angelini, micologo di Chiarafama, ci aveva fatto qualche anno fa. Oggi lo abbiamo interpellato perché di funghi non ce n'è. Non ce n'è in Friuli Venezia Giulia e in tantissime altre parti del nord Italia. Una situazione, Angelini, che nessuno ricorda. Abbiamo fatto anche un'indagine verso le persone più anziane di montagne, dei boschi che conoscono da una vita i nostri boschi del Friuli, e c'è una cosa come quest'anno a loro memoria non è mai successa. Tutto il mese di luglio e agosto senza un fungo nei boschi è veramente incredibile. Non ci sono neanche quelli velenosi. Non è che il bosco dice questa settimana facciamo i velenosi e questa settimana facciamo quelli commestibili. È stata veramente dura quest'anno e continua ad esserlo purtroppo. C'è una spiegazione plausibile, scientifica? Cosa sta succedendo? Come in tutte queste cose qui, purtroppo la scienza non ha risposta. Uno potrebbe chiedersi perché l'anno scorso ce ne sono stati così tanti, esageratamente tanti, di funghi l'anno scorso, e anche lì l'anno scorso non avevamo norma, non avevamo risposte l'anno scorso e non le abbiamo neanche quest'anno. Sicuramente le condizioni climatiche incredibili di quest'anno, perché mancanza di piovosità, senz'altro, ma poi soprattutto quest'anno tutti quanti quelli che vanno a camminare in montagna confermano la stessa cosa: il vento. Non c'è mai stato tanto brezza e vento in Friuli durante tutta l'estate, e noi sappiamo che il primo nemico dei funghi è il vento, perché asciuga lo strato più superficiale, perché i boschi sotto sono umidi a 10-15 centimetri, ma è lo strato superficiale di questo vento da nord che viene ormai da 2 mesi, l'abbiamo questa brezza continua, ha praticamente essiccato tutta la superficie dei boschi. Qualche giorno fa è cambiata la luna, può cambiare qualcosa? Scientificamente parlando, la luna non influisce la crescita dei funghi, nel senso che con i vari censimenti, anche che la nostra federazione di gruppi micologici fa da anni qua in Friuli Venezia Giulia, si vede che quando ci sono più funghi o quando ci sono meno funghi, una volta si è in calo di luna, una volta si è in crescita, una volta è luna piena, una volta, e quindi non si ha una dimostrazione scientifica, però ti garantisco che tutti i cercatori di funghi vanno a funghi con la luna, e quando non le trovano dicono non era la luna giusta. E come se ce ne fosse bisogno, c'è anche una polemica dalla presenza abbondante di arvicole nei boschi. Questo aumento c'è stato perché l'anno precedente c'è stata una grande fruttificazione del faggio, in teoria e anche in pratica, e i topi noi sappiamo che possono trasmettere delle varie malattie. La febbre dei topi, così la chiamano. C'è qualcuno che sta dicendo in giro che non bisogna mangiare i funghi quest'anno anche se ce ne sono pochi, comunque non bisognerebbe mangiarli, perché con tutti questi topi potrebbero trasmettere questi virus. Io direi che non dobbiamo preoccuparci più di tanto, nel senso che comunque i funghi vanno cotti. Chi ha fatto il patentino di funghi ha imparato ai corsi che i funghi non vanno mai mangiati crudi, e quindi quando il fungo viene cotto anche per poco tempo, qualsiasi virus contenga viene ammazzato con la cottura. Pensare globale e agire locale, un po' la linea guida per chi fa agricoltura biologica. Oggi Cristina Micheloni ci parla della presentazione dei dati del bio italiano alla Fiera Sana e all'Organic World Congress. Proprio nella settimana appena conclusa ci sono stati due eventi importanti: da un lato la presentazione dei dati del bio italiano durante la Fiera Sana, dall'altro l'Organic World Congress di IFUAM, ovvero l'evento che solitamente avviene ogni 3 anni e che raduna le esperienze scientifiche, tecniche e pratiche più rilevanti del settore bio a livello mondiale. Quest'anno l'evento si è tenuto in modalità ibrida a Rennes, in Francia. Su entrambi gli eventi ritornerò nelle prossime puntate, perché di informazioni e materiali sono stati prodotti davvero tanti e buona parte utili anche nell'agro friulano. Ma intanto qualche anticipazione, tanto per creare l'attesa. I dati del bio italiano al 31/12/2020 continuano a segnare la crescita: 2 milioni e 100 mila ettari coltivati in bio, ovvero il 16,6 della SAU nazionale, tanto per dire 10 anni fa era l'8,7%, e quasi 82 mila operatori certificati. Bene, ma molto meglio hanno fatto nell'ultimo anno Francia, Germania e Spagna, in termini di numero di operatori, e sempre bene continua a fare l'Austria. Guardando agli euro, le esportazioni del bio italiano nel 2021 sono aumentate dell'11% rispetto all'anno precedente, generando 2,9 miliardi di euro e posizionando l'Italia al secondo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti. Anche il mercato interno cresce e le vendite, considerando tutti i canali, sono aumentate del 5% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 4,6 miliardi di euro. In regione andiamo avanti, ma ancora troppo piano, siamo al 7,5% della SAU e le opportunità continuano a passarci davanti. Solo un accenno all'incremento delle importazioni da paesi non UE, soprattutto di cereali, oli e alcuni ortaggi. Nulla contro chi fa bio in altri paesi, ma il concetto di legame col territorio è intrinseco al biologico, quindi, consumatori, leggete bene l'etichetta e privilegiate il bio locale. Qualche nota sull'Organic World Congress di Rennes. Molta attenzione ai sistemi di allevamento, sia in termini di benessere animale che di impatto ambientali. Molti lavori scientifici che ci danno l'idea di come e di quanto cambierà la zootecnia, sia quella bio che quella convenzionale, nei prossimi anni. Guidata per buona parte dalla richiesta dei consumatori e dalle evidenti necessità di cambiare per tentare di salvare ambiente e clima. Continua anche, e comincia a dare qualche interessantissimo risultato, la combinazione fra biologico e conservativo, con risultati da Francia e Canada su come produrre cereali, mais e soia in bio, evitando la aratura e le altre lavorazioni. Idee per evolvere anche l'uso del roller crimper, di cui già abbiamo parlato lo scorso anno. Alle prossime puntate per approfondire e adattare alla nostra realtà. Ritorna a vita nei campi quella che abbiamo chiamato la rubrica dell'università, ovvero come e quanto l'Università di Udine stia lavorando in favore del mondo dell'agricoltura. In studio il magnifico rettore Roberto Pinton, per iniziare appunto un discorso organico dei rapporti tra l'Università di Udine e la vita nei campi nella nostra regione. Cosa è stato fatto e cosa avete in animo di fare? Basti pensare, insomma, che una delle primissime facoltà, insomma, dopo lingue e ingegneria, fu la facoltà di agraria, quindi il legame molto forte, diciamo, tra l'Ateneo, io stesso sono un docente della facoltà di agraria, cresciuto nella facoltà di agraria, e l'agricoltura del territorio, quindi nata su spinta, diciamo, popolare per lo sviluppo del territorio. È chiaro che una delle prime costole importanti dell'Ateneo era proprio agraria. Sia l'attività formativa che l'attività di ricerca, e quindi anche l'attività interazione nel territorio, del trasferimento tecnologico, chiamiamolo così, e della conoscenza, è sempre stata imperniata a un forte legame con il territorio, e in particolare negli anni si sono sviluppati soprattutto quei rapporti che hanno portato a trasferire l'attività di ricerca di alto livello con dei benefici diretti e anche indiretti all'agricoltura. Posso citare solo ad esempio la selezione delle viti resistenti, che arriva però, ricordiamolo, dopo più di un decennio di selezione dei genotipi di vite, sostenuto anche dalla nostra amministrazione regionale, la sequenziamento del genoma della vite, che è stato fatto per la prima volta a Udine, che sembrava una cosa, uno studio esotico, diciamo, all'epoca, ma che invece poi ha portato a una selezione di questi vitigni che adesso favoriscono anche la coltivazione di una pianta di pregio con il rispetto dell'ambiente. E c'è anche un altro progetto che porta il nome di AgriFood. Beh, certo, AgriFood ormai è diventata una parola chiave, lo sappiamo bene, e assieme al Green Deal. Noi naturalmente non ci siamo preoccupati solo ed esclusivamente di produttività primaria, ma consideriamo sempre anche il fatto che il cibo, l'atto del cibarsi, non sia solo un nutrimento fisiologico, ma col cibo ci stia anche la protezione della salute, aspetti sociali ed antropologici. È chiaro che per noi sviluppare cibo e in funzione degli aspetti salutistici è fondamentale. In questo ambito naturalmente mettiamo a disposizione del territorio anche attività sulla sicurezza alimentare. Recentemente abbiamo sviluppato un laboratorio presso il nostro Uniud Lab Village, proprio ed esclusivamente di interazione fra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa. Continua il nostro viaggio assieme al professor Roberto Zieroni nel mondo del vino. Siamo ancora al trattamento dell'uva, alla pigiatura, alle fermentazioni in bianco e rosso. Dopo aver classificato le uve secondo le normative vigenti, sulla porta della cantina abbiamo due tipologie di prodotti: le uve idonee a produrre vino e quelle invece non idonee. Quelle non idonee possono essere ugualmente lavorate all'interno della cantina, ma a questo punto la legislazione di riferimento sarà quella dei succhi e dei fermentati di frutta. Quindi possiamo ottenere dei succhi d'uva, dei distillati d'uva e degli zuccheri d'uva. Le uve idonee alla vinificazione entrano invece a pieno titolo nelle filiere produttive della cantina. La prima operazione enologica è la pigiatura dell'uva, che consiste in un'operazione che serve a rompere con delicatezza la buccia degli acini e permette una prima fuoriuscita del succo e della polpa. Anticamente la pigiatura veniva effettuata coi piedi nei palmenti e successivamente anche all'interno di contenitori di legno. Il prodotto ottenuto era sicuramente ottimo, perché le uve non venivano stressate, ma da un punto di vista igienico è stata sostituita nei tempi moderni da un'operazione di raspa pigiatura, che consiste nella separazione dei raspi e nella rottura del frutto. Praticamente il raspo non ha interesse enologico e quindi viene abbandonato dalla filiera produttiva. Il prodotto ottenuto dall'operazione è quindi un pigia di raspato, che a seconda dell'obiettivo enologico viene inserito in due tecnologie enologiche principali, la vinificazione in rosso o la vinificazione in bianco. La vinificazione in rosso, vinificazione con macerazione, è caratterizzata dal contatto tra bucce e mosto in fermentazione. Quindi per effetto dell'alcol e della temperatura, gli antociani e le sostanze tanniche vengono estratte in questo periodo di macerazione, che può durare da qualche giorno a qualche settimana. Dopo la macerazione le parti solide vengono pressate per recuperare ulteriore liquido e tutta la massa liquida è stoccata in contenitori di varia natura per l'affinamento e la maturazione. Nella vinificazione in bianco invece la fermentazione avviene senza contatto tra vinace e mosto, quindi alla fase di sgrondo pigiatura viene seguita una fase di pressatura ove andremo ad estrarre dal prodotto le ultime frazioni di liquido aderente alle parti solide. Quindi il liquido viene ulteriormente illimpidito per mezzo di tecniche variabili e la fase liquida limpida è sottoposta a fermentazione a temperature controllate, temperature basse per mantenere nel prodotto sia gli aromi varietali che gli aromi fermentativi. Questa tecnica è applicata in modo particolare alla produzione dei vini bianchi e origina dei vini che normalmente vengono consumati a 2-3 anni dalla vendemmia. E per la rubrica dell'orticoltura con Sara Bosco, come difendere le nostre colture dal caldo eccessivo? Il nostro orto ha risentito parecchio delle alte temperature del mese scorso e molte colture estive piano piano si stanno esaurendo. Ma dall'altra parte le colture invernali si stanno sviluppando e prendendo il loro posto. Quest'estate le nostre colture hanno richiesto molta manodopera per la loro gestione, in quanto oltre alle pratiche abituali di movimentazione terra è stato necessario irrigare quotidianamente, cercando di proteggere dall'eccessivo caldo. L'acqua è stata una parte fondamentale per tutte le piante, e lo è sempre, in quanto permette il funzionamento di svariati processi fisici, biologici e chimici, ma va distribuita correttamente e nelle giuste quantità. Infatti l'ideale sarebbe irrigare la sera o la mattina presto, in maniera localizzata sull'apparato radicale e in quantità non eccessive, in quanto se l'apparato radicale è superficiale si andrebbe a sprecare eccessivamente l'acqua. Se le gocce dell'acqua però vanno a finire sulle foglie o comunque sull'apparato aereo e le temperature esterne sono elevate, potrebbero portare a delle bruciature. Oltre alle foglie però il danno che si viene a creare e che crea maggiori problemi avviene sui frutti, dove si creano delle vere e proprie scottature. In alcuni casi addirittura, come succede in alcune solanacee, se le temperature sono troppo alte i fiori abortiscono e non avremo nessuna produzione, almeno per un periodo, finché non si abbassano le temperature. Spesso però, oltre all'irrigazione, bisogna proteggere le nostre piante con ombreggianti o tessuto in no tessuto, che permettono di evitare il contatto diretto dei raggi solari sulle piante, mentre nel caso dei vasi sul balcone sarebbe preferibile spostarli in delle zone più ombreggiate. Nonostante le temperature di questo mese siano ancora piuttosto alte, c'è una maggiore escursione termica, in quanto nella notte c'è una temperatura più fresca e le nostre piante sono in grado di proseguire nella loro crescita. Anche le semine e i trapianti ora possono avere un maggior successo, perciò possono essere messe a dimora, sovesci, colture in pieno campo, anche in tunnel freddo. Oggi Roberto Zotter per lo spazio della gastronomia ci ricorda come il dado da brodo non sia certo una invenzione novecentesca e ci propone una sua preparazione tipica friulana a base di savours. Il prezzemolo. Alea iacta est, il dado da brodo ha una storia antica. Convinzione comune è che i dadi da brodo siano un'invenzione moderna, ma l'industria alimentare ha solo reso popolare un'idea che la gastronomia aveva già inventato nel 1700. Nel passato si pensava che la carne contenesse il nutrimento vitale, per questo in francese la parola viande, come in italiano vivanda, fanno riferimento alla vita e si riteneva che la parte nutritiva delle carni fosse presente nella parte liquida che poteva essere estratta e concentrata nel brodo. A inizio 800 in Francia si sviluppò la cucina dei brodi ristretti, i consommé, e dei fumetti e brodi medicinali. Popolarmente si fa derivare la parola ristorante dalle insegne dei locali che servivano brodi bollenti aperti dai cuochi disoccupati dei nobili colpiti dalla rivoluzione francese. Sull'insegna c'era scritto bouillon restaurant, cioè brodo ristoratore, e da ciò il termine restaurant. In realtà il termine francese restaurant, da restaurer, ristorare, comparve già nel XVI secolo per indicare un cibo che ristora, ma ci si riferiva comunque a una gustosa minestra. Il maggiore esponente della cucina dei brodi fu Antoine Carême, cuoco anche al servizio di Napoleone Bonaparte, che scrisse un trattato dei brodi grassi e magri. Nel testo c'è la ricetta di una glassa di pollo in tavolette che Carême usava per poter dare a Napoleone una tazza di brodo caldo durante i suoi viaggi. Queste tavolette erano comuni all'epoca e in un testo del 1711 di un anonimo si legge: «Nei giorni di viaggio prendete uno o più tavolette a seconda della quantità di potage di cui avete bisogno. Fatele sciogliere nell'acqua calda ed otterrete presto dei potage succulenti e vellutati». Al giorno d'oggi nei dadi industriali predomina il sale, quasi onnipresente sono il glutammato, un esaltatore di sapidità, e gli estratti di carne, vegetali o lieviti, con altri composti chimici, e spesso della carne non vi è quasi traccia, venendo a mancare quel nutrimento vitale che aveva dato origine alle parole viand e vivanda. La nostra tradizione friulana contempla una sorta di dado vegetale ante litteram con i savours, cioè la miscela di ortaggi freschi tritati e mescolati con sale e conservati in vasi di terracotta. Per preparare questo insaporimento saporitore vegetale, frullate insieme dopo averli mondati un chilo di carote, mezzo chilo di porro, mezzo chilo di cipolla, 250 g di prezzemolo, 150 g di sedano, una testa d'aglio e erbe aromatiche a piacere. Mescolate con sale pari al 20% del peso della verdura. Si conserva così fresco in vasetti o si può passare al microonde per un quarto d'ora mescolando per disidratare il tutto. Buon appetito! Con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato attivo con prezzi diversificati venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 24,90 e 25,10 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico 62,65, tra 21,20 e 21,60. Il frumento tra 24,20 e 24,70. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 7,90 euro e il frumento di 7 euro il quintale. Passando ai bovini da macello, è proseguito il buon andamento delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità, che vengono pagate a peso morto tra 2,60 e 2,90 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,90 e 2,60. Mercato in movimento nel settore dei vitelli da ristallo, con prezzi diversificati. Le quotazioni accertano che i blu belga maschi vengono pagati tra 6,30 e 6,80 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,70 e 5,10, i frisoni tra 1,70 e 2 euro e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si evidenzia una diversità dei prezzi. I lattonzoli di 30 kg vengono quotati franco partenza in ribasso a 2,53 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati in aumento a 1,56 il chilo. Domanda confermata con quotazioni deboli per il montasio 90 giorni, che viene pagato tra 6,30 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato di 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Migliorano invece il prezzo del latte crudo di vacca francostalla di origine Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone e Udine lo ha quotato tra 35,50 e 36,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'Osmer Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Questa prima parte di settembre è iniziata con temperature massime sempre piuttosto elevate, fino a 2 gradi e mezzo sopra la media, mentre le temperature minime notturne sono state più basse, specie in pianura nei fondovalle montani, con circa 2 gradi in meno rispetto al normale, condizioni quindi di marcata escursione termica. Stiamo ancora assistendo ad una situazione caratterizzata da aria abbastanza secca, con un ripetuto afflusso di masse d'aria di provenienza nord-orientale, giornate prevalentemente serene, dovute anche alla persistenza in quota dell'anticiclone di origine africana. Sono mancate completamente le precipitazioni in regione, l'assenza di piogge significative dura dal 26 agosto scorso e continuerà ancora per alcuni giorni. Al momento si conferma quindi la prima parte di un vecchio proverbio che dice «settembre o secca le fonti o ribalta i ponti». Fino a martedì, infatti, l'anticiclone regalerà ancora stabilità atmosferica, con cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, con temperature estive, mentre sulla zona montana sarà possibile la formazione di locale nuvolosità, specie al pomeriggio, con qualche debole pioggia. Da mercoledì pomeriggio fino a sabato sarà probabile che inizino ad affluire correnti sud-occidentali a tratti più umide ed instabili, che potranno provocare nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi, con piogge localmente anche abbondanti, specie fra giovedì e venerdì, e un lieve calo delle temperature massime. Verso la fine della prossima settimana l'evoluzione è incerta, ma in ogni caso non si intravede un calo significativo delle temperature, che sembrano permanere ancora piuttosto al di sopra della media. Ma come sempre raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni, perché specie in autunno i cambiamenti di circolazione atmosferica possono essere molto repentini. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Micheli empie il feral e San Giuseppe lo distude, ovvero San Michele il 29 settembre accende la lampada e San Giuseppe il 19 marzo la spegne, relativo all'accorciarsi e all'allungarsi delle giornate.